Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, venerdì scorso si è svolto l'atteso incontro tra il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Sappiamo come è andata a finire, ma le cronache forse non ci hanno detto tutto sul rapporto personale tra i due leader, entrambi certamente personaggi abbastanza sicuri di sé. Del resto la Merkel ormai è un personaggio europeo, la sua leadership riverbera gli effetti su decisioni che ci riguardano tutti e quindi sarebbe utile conoscerlo un po' meglio. Forse anche Matteo Renzi farebbe bene a leggere il libro che adesso vi propongo, di un giornalista e politologo tedesco, Michael Braun, che si intitola Mutti, Angela Merkel spiegata agli italiani, è pubblicato dalla Terza, 148 pagine, 14 euro. Braun ci dà qui non soltanto il resoconto della vita della Merkel, che come sapete è nata in Germania orientale, non venne coinvolta in alcun movimento d'opposizione durante il regime comunista, crebbe politicamente all'ombra di Kohl per poi emanciparsi dando un contributo essenziale alla defenestrazione del leader tedesco al quale poi sarebbe succeduta. Quindi non soltanto il racconto della vita, ma una spiegazione del personaggio. Merkel, infatti, ci spiega l'autore, è maestra nel trasformare le crisi in opportunità e ce ne dà Braun tre esempi dei quali adesso parliamo in questa conversazione con l'autore. Buonasera a Michael Braun. Buonasera. Michael Braun, come dicevo prima, lei scrive nelle prime righe del suo libro sulla Merkel che la cancelliera è una grande maestra nel trasformare le crisi in opportunità e fa tre esempi. Ci può spiegare questa capacità di Angela Merkel? Basta vedere un po' il suo percorso. La prima crisi è per lei anche il trampolino per entrare in politica, chiamiamola crisi, era un evento epocale, la caduta del muro di Berlino. Infatti Angela Merkel cresce come scienziata, come ricercatrice nella DDR fino ai suoi 35 anni, non aveva mai masticato la politica, non aveva mai neanche amministrato un condominio, crolla il muro nel novembre dell'89, un anno dopo Angela Merkel si trova già parlamentare al Bundestag e pochissimi mesi dopo ancora, i primi del 91, è già ministro della Repubblica. Lì vediamo benissimo come veramente sa sfruttare una crisi storica. 10 anni dopo, nel 99, Helmut Kohl, il grande leader della CDU, inciampa su un colossale scandalo di finanziamento illecito al partito. Chi emerge come nuova leader della CDU, di nuovo, è Angela Merkel. E ancora devono passare altri 10 anni, arriviamo nel 2009, entriamo nella crisi dell'euro. Anche lì Angela Merkel diventa la star, la Mutti, la mamma per i tedeschi e il leader incontrastato dell'Europa. Lì vediamo proprio che la sua ascesa a quello che è diventata negli anni, nei decenni, è scadenzata proprio sempre da grandi crisi in cui lei, con i suoi nervi saldi, riesce a tirar fuori il meglio da quelle situazioni per avanzare politicamente. Ecco, restiamo a quest'ultimo aspetto, al salvataggio dell'euro. Lei spiega che Angela Merkel è sicuramente fortemente interessata a passare alla storia come colei che ha salvato l'euro, ma secondo lei non stanno prevalendo adesso le spinte centrifughe come il rifiuto dell'austerità in molte opinioni pubbliche, la debolezza della Francia, il problema delle frontiere, dei migranti? Senz'altro in questa fase storica prevalgono queste spinte centrifughe. Infatti, guardando la mia argomentazione, si vede proprio che non sono affatto un fautore della linea seguita da Angela Merkel in quella crisi dell'euro. Se dico ha sfruttato bene quella situazione, parlo della sua posizione in politica in Europa, ma non parlo affatto dell'aspetto se quella politica che segue bene all'Europa. A mio avviso Angela Merkel ha avuto sempre, diciamo, una stella polare ed è l'interesse nazionale tedesco, forse molto meno ha avuto la stella polare l'interesse comune europeo. Infatti nella crisi dell'euro lei dice dobbiamo agire come la casalinga sveva, per tradurla agli italiani, la casalinga sveva è un po' come i genovesi in Italia, c'è chi tiene proprio i cordoni della borsa sempre ben stretti, chi non vuole rischiare sui finanziamenti. Lei è sempre stata guidata da questo punto di vista, che è un punto di vista molto tedesco, che però ha avuto poco riguardo per i problemi che si sono aperti al sud del continente. Quindi secondo me le tendenze centrifughe iniziano proprio da lì, da come ha difeso una certa idea dell'euro, non l'euro tout court, perché l'euro per sopravvivere deve essere sostenibile non solo per la Germania o per l'Olanda o per la Finlandia, ma anche per la Spagna, l'Italia e la Francia. E ancora Angela Merkel non ci ha proposto nessuna ricetta in merito. E la crisi cominciò con la crisi della Grecia. Secondo lei quella crisi lì non si poteva affrontare rapidamente e tempestivamente, risolvere allora, anziché farla marcire fino alla situazione che abbiamo poi visto negli ultimi anni? Senz'altro, proprio il fatto di attendere, di rimandare, non ha fatto altro che far incancrenire la situazione. Ma anche lì c'era dentro non tanto quell'aspetto che molti addebitano alla Merkel di essere una che tentenna, perché il suo tentennare in quel periodo, parliamo nel 2010, aveva pure una connotazione ben precisa. Lei tentennava per dettare le condizioni, fra le quali una invenzione proprio di Angela Merkel, la Troika. Pochi lo ricordano, ma l'allora presidente francese Sarkozy, ma anche il ministro delle finanze tedesco Schäuble, non erano affatto convinti di tirare dentro il Fondo Monetario Internazionale in questa Troika. Era una imposizione di Angela Merkel. Lei cioè voleva proprio un corso duro, fatto di un'austerità abbastanza inflessibile verso la Grecia, quindi tutto questo tentennare era orientato, non era casuale, e oggi ne paghiamo pegno proprio per questo approccio politico fatto di rimandi, fatto di sempre nuovi vertici di crisi. Se si interveniva nella primavera del 2010 con un segnale deciso, difendiamo l'euro, sarebbe veramente stato probabilmente molto meno costoso, ma Angela Merkel aveva proprio un altro approccio che diceva dobbiamo difendere l'euro come moneta dura, non come moneta tout court, e quindi ha optato per questa alternativa che paghiamo anche noi oggi. E secondo lei la Merkel come vede veramente l'Italia, dove comunque viene a trascorrere le sue vacanze, ed è sincera l'amicizia della Merkel per Renzi? Ma sicuramente le piace l'Italia, questo è poco ma sicuro, se no non verrebbe tutte le Pasque a passare una settimana ad Ischia, tutte le estati a farsi 2 o 3 settimane sulle Alpi dell'Alto Adige. Quindi non ho dubbi che il paese non le dispiace affatto. L'Italia politica è un altro discorso, cioè Angela Merkel sicuramente è convinta che è un paese da sbloccare, un paese che debba fare le riforme, e in questo il suo rapporto con Matteo Renzi soprattutto all'inizio era più che positivo. Lei sicuramente ha visto in lui e probabilmente vede ancora in lui quello che ha scosso un po' il paese, però senz'altro negli ultimi mesi ha pure dovuto prendere atto che Renzi non è un politico che sta lì a dire a Berlino vedono le cose così, a Bruxelles vedono le cose così, quindi eseguiamo. E sicuramente questo fatto ha un po' raffreddato i rapporti, ma sono convinto che ancora oggi hanno ben presente a Berlino che l'alternativa a Renzi sicuramente da un punto di vista tedesco non ci sta, no? E secondo lei c'è una Merkel all'orizzonte della Merkel, qualcuno che la possa mandare a casa come lei mandò a casa Kohl? Ma per ironia della sorte, in questa situazione in cui sembra vacillare la prima volta da anni causa crisi dei profughi, chi potrebbe attualmente mandarla a casa è un uomo che a molti sembrava piuttosto un uomo del passato, perché ha già i suoi 73 anni, ed è Schäuble, Wolfgang Schäuble, ministro delle finanze, popolarissimo nel paese, popolarissimo nel partito. Ha l'unico difetto, visto da chi proprio lo spinge, di avere quell'età. Ma Schäuble stesso ultimamente ha ricordato che anche Adenauer aveva 73 anni quando è diventato cancelliere. Bene, allora aspettiamo il libro su Schäuble. Grazie a Michael Braun, autore di Mutti, Angela Merkel spiegata agli italiani. Buona serata. Grazie, buona serata. La Germania, insomma, è capace di provocare sentimenti contrastanti fra l'ammirazione e l'irritazione. Ce ne dà testimonianza il piccolo libro di un poeta italiano, Franco Buffoni, che si intitola O Germania, pubblicato da Interlinea, 82 pagine, 12 euro, nelle quali troviamo critiche in versi e in prosa a un paese molto amato dall'autore, perché Buffoni, appunto, soprattutto in gioventù, ha avuto un rapporto di grande stima, amicizia, affetto per la Germania, dove ha passato molti periodi, ma questo affetto non gli fa velo nel manifestare alcune sue perplessità e alcune critiche che vengono condensate, per esempio, in questi versi che vi propongo. Oggi che la Germania non è più il mostro accucciato che ho conosciuto nell'infanzia, oggi che è tornata arrogante e la sua meticolosità nell'efficienza mi appare per quel che è, nevrosi da obbedienza, io le ripeto: quieta, zitta, accuccia, già hai dato il meglio, non strafare. Ci interrompiamo per un attimo, ci sentiamo fra pochi istanti. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio 24, la passione si sente. Anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parlavamo prima dei rapporti non sempre idilliaci con la Germania. Uno che coi germani pure ebbe da battagliare fu Giulio Cesare, al quale è dedicato il libro di un importante storico americano, Barry Strauss, che insegna a Cornell e che si intitola La morte di Cesare, pubblicato dalla Terza, 350 pagine, 20 euro, tradotto da David Scaffey. Come recita il sottotitolo, quello di Cesare fu l'assassino più famoso della storia, e quell'assassino qui viene ricostruito negli antefatti a partire dal ritorno a Roma nel 45 avanti Cristo. Anzi, il libro prende le mosse proprio dal primo trionfo che gli viene tributato in quell'occasione, che avvenne, che ebbe luogo a Mediolanum a Milano. Incontriamo poi personaggi della Roma di allora, i congiurati, ne cogliamo le motivazioni e assistiamo alla preparazione del complotto. Ma quali furono le origini? Perché i congiurati decisero di far fuori Giulio Cesare? Perché, spiega l'autore, si era in presenza di qualcosa di più di un passo falso di Cesare nelle pubbliche relazioni. Esisteva una crisi di fiducia nei suoi confronti. Cesare aveva abusato dell'amicizia di quegli uomini, infrangendo la regola non scritta della vita romana, secondo la quale la fedeltà doveva essere ricompensata. Così finì per convincere amici importanti che le cose sarebbero andate meglio senza di lui. E poi arriviamo alla fatale giornata del Lady di marzo e successivamente al celeberrimo funerale e agli errori successivi compiuti dai congiurati e alle conseguenze che andarono naturalmente in direzione opposta a quelli che erano gli obiettivi dei congiurati, spianando la strada proprio alla nascita dell'impero che avrebbe poi fondato Ottaviano Augusto. Tuttavia, questo esito non avrebbe fatto perdere la memoria dei congiurati, in particolare di Bruto e Cassio, e infatti il libro si conclude con queste parole: Quegli uomini erano stati trasformati in simboli potenti, tali da rammentare a tutti che finché fossero esistiti uomini e donne che ricordavano i nomi degli uccisori di Cesare, i dittatori non avrebbero dormito sonni tranquilli. Andiamo un po' avanti nel tempo con un'altra data fatidica nella storia di Roma imperiale, che viene presentata nel libro di uno storico bolognese, Giovanni Brizzi, che si intitola semplicemente 70 d.C., la conquista di Gerusalemme, pubblicato dalla Terza, 426 pagine, 24 euro. La data riguarda la conquista, opera dell'imperatore Tito, di Gerusalemme, che segnò una tappa nella lunga resistenza degli ebrei al dominio romano. Il rapporto tra questi ultimi e Roma non era mai stato facile, anche per l'impegno degli ebrei a mantenere la propria identità e la propria cultura, oltre che naturalmente la propria religione. E allora qui l'autore ripercorre le fasi di questo difficile rapporto fino alla grande rivolta che esplose nel 66 d.C. e che portò all'assedio di Gerusalemme, alla successiva distruzione del Tempio e all'ultima fiammata di resistenza, quella eroica Masada, che si concluderà col suicidio di massa degli assediati nel 73 d.C. Questo libro ricostruisce quelle vicende e si conclude con un esame sulle conseguenze di quella guerra e con una valutazione sui protagonisti della rivolta, se cioè questi fossero dei resistenti o dei briganti. E comunque si trattò di una realtà che mise Roma alle prese con una situazione che non aveva mai affrontato, quella della guerriglia. E lo scontro, in questo senso, spiega l'autore, assunse davvero un valore epocale che può essere letta come uno scontro tra due religioni, e cioè, spiega l'autore, lo zelo del credente ebreo verso la legge divina da un lato, la religione laica del romano dall'altro, una religione, quella romana, non meno coerente e inflessibile, il senso del munus da rendersi alla res publica, il rispetto che tanto il cittadino quanto il suddito dovevano alle umane leggi dell'impero. Restiamo sulla parola Gerusalemme, anzi Jerusalem, che questa volta è il nome di una ragazza o il soprannome di una ragazza, la più bella di Gerusalemme, protagonista di uno dei maggiori successi in Israele negli ultimi anni. Si intitola appunto Miss Gerusalemme, l'autrice, una scrittrice israeliana che, la cui famiglia risiede a Gerusalemme da 7 generazioni, si chiama Sarit Ishai Levi. E il libro è pubblicato da Sonzogno, 492 pagine, 19 euro, ed è tradotto da Ofra Bannet e Raffaella Scardi. Miss Gerusalemme Luna, la cui figlia Gabriella nel libro racconta la vita della madre. Meglio, la saga della famiglia, anzi di 4 generazioni, di una famiglia benestante, sefardita, che vediamo in un arco di tempo che va dalla dominazione turca fino ai primi anni 70. E questa saga attraversa la storia di quel pezzo di Medio Oriente che sembra segnata da un destino nella famiglia descritta, cioè quella dei maschi di casa di dover rinunciare ai rispettivi amori per consumare matrimoni di interesse. Di un famoso scrittore israeliano, Amos Oz, è uscito Altrove, forse pubblicato da Feltrinelli, 348 pagine, 17 euro, tradotto da Elena Löwenthal. Questo è il primo romanzo di Oz, pubblicato nel 1966 e solo adesso proposto in Italia. Siamo in un kibbutz nel nord Israele, un microcosmo che ci viene raccontato da uno dei coloni, testimone dello sconvolgimento che nella piccola comunità si verifica quando dalla Germania arriva il fratello di uno degli abitanti. E sentiamo da queste righe appunto una descrizione di Oz, di quel kibbutz. Ecco la potente disarmonia fra l'aspetto del nostro kibbutz e quello di un abitato tipico che desta nel cuore della nostra gente moti di mesta nostalgia. Se i vostri occhi sono avvezzi a forme di antichi villaggi con i tetti che svettano in nordiche volute, se nella vostra fantasia associate la parola villaggio a carretti tirati da cavalli carichi di messi con i forconi piantati dentro, se vagheggiate grappoli di casupoli intorno a vecchi campanili di chiese, se i vostri occhi cercano allegri contadini in abiti variopinti e cappelli a larghe falde e pittoresche piccionaie, torme di pollame che becchetta fra i mucchi di letame, branchi di cani magri e incattiviti, per dirne solo alcune, se vi aspettate che un villaggio abbia un bosco e sentieri tortuosi e campi cintati e canali che riflettono le nuvole basse e viandanti infagottati in cerca di un ostello, se è così che vi immaginate un villaggio, ebbene, il nostro è tutt'altra cosa, il che ci impone di usare la parola contraddizione, perché poi il nostro villaggio è costruito con spirito ottimistico. Chiudiamo la parentesi israeliane, torniamo al mondo classico, in questo caso alla Grecia, visitando uno dei luoghi più sacri, certamente più affascinanti e belli di quella civiltà, e cioè Delfi, che dà il nome al titolo di uno studioso inglese, Michael Scott, che si intitola appunto Delfi, il centro del mondo antico, pubblicato dalla Terza, 368 pagine, 25 euro, ed è tradotto da Daniele Gewürz. Delfi, secondo l'autore, è un luogo straordinario e che ha avuto un'importanza fondamentale nell'evoluzione del mondo antico. Ma perché Delfi diventò Delfi, uno dei luoghi più importanti appunto di quella civiltà, e che cosa ne rimane a parte i resti archeologici che ammiriamo ancora oggi? E le risposte le tenta questo libro, che illustra il ruolo e le funzioni dell'oracolo proverbiale di Delfi, e poi parla della parabola del successo e del declino fino alla riscoperta che avvenne solo nell'Ottocento del luogo e al suo ingresso nella mitologia collettiva. Delfi non fu soltanto l'oracolo, ma fu anche un centro di incontri e confronti importanti, meta dei personaggi più illustri del tempo. E dunque, scrive l'autore, questo colosso fatto di attività interagenti, preminenze religiose e struttura gestionale insolita non solo conferì a Delfi un capitale sociale, politico, economico, religioso e filosofico in continua crescita, che ne garantì la sopravvivenza e l'importanza in tutto il mondo antico, ma la rese fondamentale anche per la storia della riscoperta moderna della Grecia. E l'autore conclude con queste righe, che ascoltate accompagnate dalle note che a Debussy ispirò proprio la visione di Delfi. Trovo che non ci sia esempio più perfetto di Delfi del ruolo della Grecia nell'impedirci di sentirci troppo sicuri di noi. Nel mondo antico costrinse buona parte della società mediterranea a rimettere in discussione le proprie premesse, interpretazioni e identità. Allo stesso modo, nel mondo moderno, lo svolgimento della storia dell'antica Delfi ci spinge a interrogarci sulla nostra situazione attuale, sul nostro progresso, sulle nostre aspettative. Il consiglio «Conosci te stesso» è ancora valido. Delfi, in più di un senso, non ha mai smesso di parlarci. E a proposito di Roma, visitiamo la città che avrebbe soppiantato Roma come capitale imperiale, cioè Costantinopoli, dove si svolge il libro di uno storico, un bizantinista italiano, Paolo Cesaretti, che si intitola Le quattro mogli dell'imperatore, storia di Leone VI di Bisanzio e della sua corte, pubblicato da Mondadori, 182 pagine, 20 euro. Questo libro ci porta nella corte di Bisanzio dell'882 d.C. Lì regna l'imperatore Basilio, che organizza una specie di concorso tra 12 ragazze, una delle quali dovrà sposare l'erede al trono, che è il futuro imperatore Leone VI. L'incipit sembra una fiaba, invece ci introduce in una pagina drammatica di storia segnata da un duro scontro tra quell'imperatore, l'imperatore Leone, e la Chiesa, con la quale l'imperatore apre uno scontro che sembra anticipatore di quello di Enrico VIII nel XVI secolo, per poter sposare chi desidera. E infatti l'imperatore avrà appunto quattro mogli, e quindi quell'episodio fu anche una molla, ci spiega l'autore, per una grande innovazione, per dei cambiamenti di carattere politico e anche nei comportamenti privati, punteggiati da episodi che sono rimasti leggendari. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato del mondo classico e quindi vi segnalo l'Eneide di Virgilio, che viene raccontata da Carola Susani e illustrata da Rita Petruccioli in un'edizione per i ragazzi della Nuova Frontiera Junior, 124 pagine, 16 euro, dove trovate una efficace e gradevole presentazione dell'epopea virgiliana, di cui ci vengono appunto illustrate le tappe salienti. Ultimi arrivi. Agli appassionati di Dalmazia segnalo un libro di uno scrittore udinese, Cristiano Caracci, che prosegue un breve ciclo sulla città di Ragusa, Oro Dubrovnik, che si intitola Il tramonto di Ragusa, declino e caduta di Dubrovnik, pubblicato da Santi 40, 124 pagine, 13 euro, che affronta la pagina del dominio napoleonico che diede il colpo di grazia appunto all'autonomia di quella millenaria città. Poi andiamo a Napoli con Il commissario Ricciardi, la creazione letteraria di Maurizio De Giovanni, con Una domenica con il commissario Ricciardi, pubblicato da Schirà, 176 pagine, 19,50 euro. Qui troviamo un'avventura del commissario accompagnata però da una serie di bellissime immagini sulla Napoli degli anni 30, assemblate da Stefania Negro e Luca Sorbo. È un libro che è anche un grande Gesto d'amore per Napoli. Infine, un famoso uomo di spettacolo, Renzo Arbori, che ai suoi fans propone: e se la vita fosse una jam session? Fatti e misfatti di Quello della notte, pubblicato da Rizzoli, 312 pagine, 35 euro, curato da Lorenza Foschini, è pubblicato in occasione della mostra che ad Arbori viene dedicata dal Macro di Roma e che rimarrà aperta fino al 3 aprile di quest'anno. Con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Roberta Frisani, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.